have to get it quantified. Date, how much, when, under which condition. Per dirlo, non usa giri di parole il direttore generale della FAO Jacques Diouf. Nel documento approvato nel primo giorno del summit sulla sicurezza alimentare mancano scadenze precise e la cifra da destinare agli investimenti nell'agricoltura dei paesi in via di sviluppo. Non basta che i 5 principi sottoscritti a Roma per eliminare la fame nel mondo entro il 2025 siano stati acclamati all'unanimità da 60 capi di Stato e governo. Diouf ribadisce ancora una volta la necessità di stanziare 44 miliardi di dollari ogni anno per risolvere un'emergenza che oggi riguarda oltre 1 miliardo di persone. Un invito a passare dalle parole ai fatti è arrivato dal premier Silvio Berlusconi, unico leader del G8 presente, che ha esortato i grandi della terra a rispettare gli impegni presi all'Aquila, ossia lo stanziamento di 20 miliardi di dollari in 3 anni. A chiedere un intervento concreto delle istituzioni è stato anche Papa Benedetto XVI. Il n'est pas possible. Nel suo discorso in francese, il pontefice ha condannato sprechi e speculazioni, pregando i paesi più ricchi di abbandonare l'egoismo e abbracciare la solidarietà. Maria Chiara Grandi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.